Soundcheck, il suono della musica di Gegè Telesforo. Lo so, mio caro Francesco, vorresti in questo momento stare al mare con i tuoi amici, invece sei qui chiuso nel Groovemaster Studio per dare il via a un altro appuntamento del Soundcheck, prova del suono di Radio 24. Buon pomeriggio e buona domenica a tutti voi in contatto da Gegè Telesforo e buona domenica a un accaldato Francesco Tromba. Buon pomeriggio, sì, qui iniziano a raggiungersi delle temperature critiche. Infatti ti vedo con una tenuta abbastanza balneare, non mi piaci tantissimo coi pantaloncini e queste scarpe col calzino, scusami, ma non stanno benissimo, eh? Allora adesso me ne levo. Sì, sembri, non lo so, è il classico turista tipo a Roma, spiaggia. Tipo da spiaggia che gira per il centro di Roma. Va bene, allora puntata, proprio perché inizia a fare caldo e ci stiamo preparando anche per le vacanze. Io no, perché tu sai che gli artisti, quando gli altri sono in vacanza, lavorano. Almeno lavorate. Almeno lavoriamo, speriamo di farcela anche quest'anno. Sì, perché è iniziato, l'abbiamo detto, la stagione dei concerti, ne abbiamo anche presentati alcuni, stanno per arrivare festival importanti nel nostro paese, ma ce ne sono anche alcuni da non perdere per i viaggiatori che avranno la possibilità di fare vacanze all'estero. E quindi oggi, in questa prima parte del Soundcheck, dal sound tipicamente tropicale, annunceremo anche degli appuntamenti che i vacanzieri potranno seguire durante i loro viaggi. Eh sì, perché comunque bisogna sempre accompagnarsi con buona musica, nonostante i viaggi e i bei posti, ci vuole anche della... Ecco, qualche giorno fa sono stato a casa di amici che iniziavano a fare programmi e progetti per le vacanze. Mi ha molto colpito una nostra amica che analizzava la località da visitare a secondo del clima e delle possibilità di poter essere vittime di tornado, tsunami o altre catastrofi naturali. Certo, bisogna tenere in conto anche questo, perché non è, in questo momento non è estate in tutto il globo terrestre. Beh, e allora come si fa? Dovremmo partire con una bella assicurazione in mano. Oppure devi calcolare che se vai in questo momento magari in Sud America, sai che non è estate. Sai che non è estate, no, adesso. Vabbè, questo si sa, questo si sa, però fa sempre caldo. Sì, non comunque, è estate, ma il caldo c'è. Almeno 25 gradi ci sono. Allora, diamo il via all'appuntamento di oggi e quindi io direi di fare subito un viaggio in uno dei paesi più amati dagli italiani per tanti motivi, motivi diversi, e quindi vi stiamo parlando del Brasile. Sì, il Brasile è sicuramente uno dei paesi più belli e più contraddittori. Secondo te, tu che sei un comunicatore multimediale della nuova generazione, perché gli italiani amano il Brasile? Per le belle ragazze, per il calcio. Vabbè, che vergogna! Per il calcio e le belle ragazze, un paese meraviglioso, con gente bellissima, con posti che noi ci sogniamo, perché c'è ancora una natura incontaminata in molte parti del Brasile, poi è un paese molto esteso, quindi trovi di tutto in Brasile, sì, dalle cascate di Iguaçu alle spiagge bellissime di Salvador de Bahia, vabbè, poi Rio de Janeiro neanche ne parliamo. Anche antropologicamente parlando è uno dei paesi in cui gli uomini si sono mischiati in una maniera impressionante. E questo è un punto di vista che mi interessa molto, perché vengono fuori delle culture stranissime dal Brasile, anche dei movimenti culturali. E anche musicalmente ci sono, esatto, molti generi e molti sottogeneri. Sì, tantissimi, proprio una marea. Allora, ci sono dei concerti in Brasile in questo periodo? Sì, c'è. Aspetta, ci sono? Okay. Basta che mi dici di sì e poi li annunciamo dopo, perché vabbè, vorrei partire subito con la musica creata da due meravigliosi musicisti brasiliani, Maurício Maestro e Marcos Valle, per una band storica brasiliana degli anni 70 che si chiamava Boca Livre. Sì, si sono formati nel 1979 e da allora hanno avuto diversi periodi e diverse formazioni. La formazione originale era con Maurício Maestro al contrabbasso, alla viola, gli arrangiamenti. La viola e la chitarra sarebbe. Sì. La viola, vero, in portoghese. La chitarra. Zé Renato, anche lui alla chitarra e alla voce, David T. Marty Gaye, anche lui alla chitarra, a 10 corde però, è la voce, Claudio Nucci, anche lui chitarra e voce, quindi principalmente un gruppo fondato da chitarra e voci. Hai finito? Sì. Possiamo andare alla musica. Eccoli qui, Boca Livre con Amisagi, qui al Soundcheck di Radio 24. Pode estar bem certo que peito aberto é onde se encontra paz. Amizade é flor que não machuca a mão, não carrega espinho, só beleza em seu botão. É assim, sempre foi, para sempre será, é sem fim, nunca vai mudar. Puntata molto tropicale qui al Soundcheck di oggi, Boca Livre, il sound brasileiro di Maurizio Maestro e Marcos Waller, per dare il via a questa puntata dal sound tipicamente estivo, annunciandovi anche alcuni appuntamenti che potrete seguire dal vivo, magari in posti bellissimi di vacanza. E quindi in Brasile che cosa possono vedere e seguire gli appassionati di musica? C'è un festival che si chiama Rock in Rio de Janeiro, però c'è anche una sezione abbastanza conforme al nostro sound, quindi ci saranno dal 18 però al 27 di settembre, quindi non subito. Beh, non però tu come sempre, come spesso dici, ci possiamo preparare anche da un punto di vista economico. Eh sì, perché comunque magari a settembre costa pure un po' di meno il volo. Esatto. Non ho capito perché, ma i voli per il Brasile costano sempre tantissimo. Perché comunque è un bel viaggio. Sì. È un bel viaggio. Sono diverse ore. E poi tu fai il viaggio per San Paolo Rio, poi ti devi muovere all'interno e lì sono altri soldini che se ne vanno. Beh, però già quando arrivi lì poi costa un po' di meno la vita rispetto ai nostri standard. Ma magari qualche anno fa, adesso non più, credimi. Sì, io lo so perché ho in famiglia ho dei brasiliani, quindi lo so bene. Comunque, allora, che viaggio facciamo? Andiamo a Rio de Janeiro per vedere Rock in Rio. Sì, John Legend, Angelique Kidjo, Al Jarreau anche, Raul Midon, Sergio Mendes, Sam Smith, Elton John e Rod Stewart. Ecco, solo chi per ha detto, scusatemi, chi ha detto Al Jarreau? Io. Ecco, hai visto, hai fatto bene, perché Al Jarreau insieme a Oleta Adams hanno partecipato alcuni anni fa alla produzione di un disco intitolato A Twist of Jobim, ovvero la musica di Antonio Carlos Jobim, proposta da grandi voci del panorama internazionale e anche da grandissimi musicisti. Quindi uno dei brani interpretati e presenti in questo album è proprio Agua de Marzo, la famosissima Agua de Marzo di Antonio Carlos Jobim, per le voci di Al Jarreau e Oleta Adams qui al Soundcheck di Radio 24. A stick, a stone, it's the end of the road. It's the rest of a stump, it's a little alone. It's a sliver of glass, it is life. It's the sun, it is night, it is death. It's a trap, it's a gun. The oak when it blooms, a fox in the brush. The night in the wood, the song of the thrush. The wood of the wind, a cliff, a fall. A scratch, a lump, it is nothing at all. Sound check. Il suono della musica. Al Jarreau e Oleta Adams hanno interpretato Agua de Marzo di Antonio Carlos Jobim, invece il nostro Sting, meraviglioso musicista, cantante, compositore, autore e producer, nel 2006 partecipa al progetto Rhythms del Mundo, ovvero un progetto senza fini di lucro per la realizzazione di un album che mise insieme un collettivo di musicisti cubani di livello internazionale, alcuni dei protagonisti dei famosi Buena Vista Social Club come Ibrahim Ferrer, Omar Aportuondo e musicisti americani e inglesi per realizzare quindi un album con il quale tutti questi artisti puntavano l'accento proprio sui problemi del cambiamento climatico. Questo proprio perché nel 2005 c'era stato lo tsunami devastante, poi l'uragano Katrina, insomma una serie di disastri terribili, e il producer proprio di questa produzione fa notare che il riscaldamento globale è nelle notizie di ogni giorno, e se non agiremo nei termini che i nostri esperti ci hanno dato, i nostri nipoti ci condanneranno in eterno. Sì, è una cosa che bisogna assolutamente tenere in conto, perché continuando così, con queste emissioni, con questa anche economia, cioè, non potremo più andare in vacanza. Prima o poi non avremo probabilmente più un mondo. No, sul serio dico, bisogna organizzare il viaggio tenendo presente anche queste problematiche climatiche. Assolutamente. Tu pensa, fai un viaggio e ti ritrovi in mezzo all'uragano. Certo, il terremoto non lo puoi prevedere. No, assolutamente, assolutamente no. Va bene, allora, da Sting con Buena Vista Social Club, dal Brasile ci siamo spostati quindi alla meravigliosa isola di Cuba, che è sempre una meta importante anche per gli italiani. Perché gli italiani, secondo te, amano Cuba? Per le belle ragazze, per il mare, sei il rum, fissato. I sigari. Sei fissato. Beh, andare a Cuba è anche un salto negli anni 50 comunque. Eh sì, è anche un salto in un territorio musicale impressionante. Hai previsto, la famiglia Castro si sta muovendo a livello internazionale, probabilmente non ci sarà più l'embargo da parte degli Stati Uniti, è venuto in Italia, è andato a trovare il Papa, quindi speriamo che Cuba possa aprire prestissimo le sue frontiere ai cubani e dare la possibilità anche agli americani di andare a visitare un'isola splendida. Speriamo veramente, perché comunque Cuba non si merita questo embargo, dobbiamo dire. E soprattutto Cuba continua a sfornare musicisti eccezionali come questa vocalist Daimé Arosena. Ve la presentiamo ancora una volta. Questa ragazza ha trovato l'America in Inghilterra, perché il marpione di Giles Peterson, come sempre attento alle novità, l'ha messa sotto contratto per la sua etichetta, ha realizzato con lei anche un bellissimo disco. Sì, l'ha scoperta con il suo progetto Havana Cultura, quando lui è andato lì a Cuba a conoscere, alla ricerca anche di un sound più tropicale, più caraibico. Da allora proprio l'ha conosciuta e l'ha portata nella sua Brownswood Records, dove ha anche realizzato da poco un disco che si chiama Nueva Era. E infatti noi la stiamo presentando qui al Soundcheck proprio per puntualizzare la nostra attenzione nei confronti dei nuovi talenti. E Daimé Arosena, che è giovanissima, quanti anni ha? 22 anni. Arriva in Italia. Sì, suonerà all'Umbria Jazz il 19 di luglio insieme anche a Taylor McFerrin, Romare, e ci sarà anche un DJ set di Giles Peters. Allora, da non perdere, puoi ripetere la data? 19 di luglio. Il tutto a Perugia, Umbria Jazz. Sì. Bene, allora Daimé Arosena, protagonista con Don't Unplugged My Body qui al Soundcheck. Poi pausa, facciamo per le news, l'informazione delle 16, e poi di nuovo tutti qui su questi schermi per la musica del Soundcheck. Soundcheck. Yes. Il suono della musica. Before anything, you make me wanna leave the fall. Siete di nuovo collegati con il Groovemaster Studio di Radio 24 per il soundcheck di questa domenica, puntata tropicale, ma anche una puntata con la quale vogliamo celebrare ancora una volta The Perfect Animal, il titolo del nuovo album di questa meravigliosa Becca Stevens con la sua band, autrice, compositrice, eccellente cantante, bravissima musicista, alla quale abbiamo dedicato una bella puntata qualche settimana fa. Sì, è anche una bella ragazza, possiamo dire. Ancora, ma sei fissato oggi? Ti è salito il testosterone con il caldo? Eh sì, d'estate parte. E voi calabresi siete fatti così. Si intitolava You Make Me One, una composizione di Usher per la voce di Becca Stevens con la sua band. E perché dopo il Brasile, dopo Cuba, ci siamo spostati negli Stati Uniti? Perché ci sono molti turisti italiani che hanno come meta obbligata gli Stati Uniti, dove di musica, la musica non manca. Eh sì, un festival da non perdere assolutamente, si svolgerà a New Orleans dal 2 al 5 luglio e si chiama Essence Festival. Ecco, dopo il Jazz New Heritage Festival che si svolge ad aprile, a New Orleans c'è anche questo bellissimo appuntamento. Sì, dove si esibiranno India Airy, Floetry, Common, Erika Badu, Cam, Lian La Havas. Ma questo è il mio festival. Mary J. Blige. Porca miseria, ci sono Elliot, tutti. Ci sono tutti. Sì, Trombone Shorty. Ah, non tromba, pensavo che anche tu facessi il concerto a New Orleans. Ci sarà anche Esperanza Spalding, Robert Glasper, Bilal, Eric Robertson, Kindred and Family Soul. Jeff Bradshaw e ci sarà anche Kendrick Lamar. Ecco, ci sono tutti. E Kendrick Lamar arriva con il suo album nuovissimo. Tra l'altro, anche Kendrick Lamar è presente nell'Airplay, nel Soundcheck Airplay Music Award stagione 2014-2015, un modo per celebrarci, anche per ringraziare gli artisti che hanno regalato il sound al nostro programma. E quindi troverete anche voi nelle pagine Facebook del Soundcheck, su Twitter, come dire, gli artisti in nomination, che anche voi potrete votare inviando le vostre preferenze utilizzando anche l'indirizzo di posta elettronica soundcheck@radio24.it. alla fine della stagione, quindi fra 3 settimane, perché a fine giugno chiudiamo i battenti per prendere anche noi una boccata d'aria, anche se poi io andrò a fare i concerti in giro, e quindi staremo a verificare chi ha caratterizzato il sound del nostro programma. Sì, c'è una grandissima lotta fra Kendrick Lamar e D'Angelo. E D'Angelo per la Black Music. Sì, sì, esatto. Quindi, come dire, Robert Glass per niente invece. È perché best. Comunque già ha vinto un Grammy Award. E quindi gli basta, meglio il Grammy Award del Soundcheck Play Music Award, giusto? Giustamente, Kendrick Lamar al soundcheck con You Ain't Got a Lie, Mama Said. Steady low, steady wrong, nigga. Hey, y'all close that front door, y'all let flies in this motherfucker. Spot you a mile away, I can see your insecurities written all on your face. So predictable your words, I know what you're gonna say. Who you fooling or you assuming you could just come and hang with the homies, but your level of realness ain't the same. Circus acts only attract those that entertain. Small talk, we know that it's all talk. We live in the laugh factory every time they mention your name. Soundcheck, il suono della musica. Tipicamente giamaicano per Nika con Babylon qui al Soundcheck in questa puntata tropicale, con la quale vi abbiamo presentato alcuni appuntamenti live importanti da seguire all'estero. Un appuntamento che abbiamo dedicato ai vacanzieri, a chi andrà in vacanza fra pochissimo. Magari vi trovate già nei luoghi deputati alla musica e ai grandi concerti. Quindi ci siamo spostati in Giamaica. E in Giamaica ci sono festival e concerti in questo periodo? In questo periodo no, penso faccia un po' troppo caldo. Forse, non lo so. Ah no, sono in vacanza anche i giamaicani. Sì. I musicisti giamaicani arrivano dalle nostre parti, giustamente. Sì. E mi sembra giusto. Eh sì, perché comunque poi si emigra. Adesso ho una domanda per te, Tromba. Questa è importante, pensaci bene. Una domanda fatta proprio per un comunicatore multimediale della nuova generazione. Perché gli italiani amano andare in Giamaica? Indovina un po', perché per le belle donne? Qualcosa che ha a che fare col verde, con le piante perché che trovi. Ti ho fatto questa domanda per il Brasile, per Cuba, per gli Stati Uniti, vabbè, c'è tanta musica, anche belle donne. Tu mi hai sempre risposto per le belle donne. Nel caso della Giamaica, invece, non è per le donne. Anche in Giamaica, però diciamo che lì scala al secondo posto. Il primo donne. Posto, devi essere esplicito. La vegetazione. La vegetazione, cioè la marijuana. Esatto. Tu dici che molti italiani vanno in Giamaica per quello. Sì. Tra l'altro, lo sai, l'abbiamo anche raccontato una volta, che la famiglia Marley ha messo in vendita anche via internet la medical marijuana Marley, garantita, proprio quella che fumava Bob. Quindi proprio le piante secolari. Guarda. Piante secolari. E dopo che hai fumato la medical marijuana della famiglia Marley, naturalmente non puoi che ballare, che cosa? Jammin', per esempio, sì, no? Per forza. I Shot the Sheriff. I Shot the Sheriff si adatta meglio. Si adatta meglio. Allora, facciamo una cosa, chiudiamo questa prima parte proprio con una composizione di Bob Marley, Waiting in Vain, bellissima, ma nella versione patinata e contemporanea della vincitrice del Grammy Award per il jazz vocale di quest'anno, Diane Reeves, con la complicità di un'altra voce spettacolare, più soul, più R&B, quella di Lala Hathaway. Quindi Waiting in Vain chiude la prima parte del nostro soundcheck. Ci risentiamo alle 19:15 per il jazz. Di che cosa parleremo, che cosa ascolteremo, non lo sappiamo ancora, ma senz'altro protagonisti del jazz di tutti i tempi, e soprattutto vorrei presentare alcune pubblicazioni dei libri che gli appassionati di jazz potranno portare in vacanza e quindi continuare ad avere questo rapporto con la loro musica preferita anche in spiaggia. Eh sì, sotto l'ombrellone uno può sempre dare uno sguardo alla biografia, per dire, di Ray Charles. E vai, Diane Reeves, Lala Hathaway, Waiting in Vain. Sound check, il suono della musica di Gegè Telesforo. Praticamente sotto il getto diretto dell'aria condizionata, con il nostro Francesco Tromba siamo pronti per dare il via al soundcheck, la seconda parte di questa domenica. Buonasera a tutti voi da Gegè Telesforo e Francesco Tromba. Buonasera, attento all'aria condizionata che certe volte fa dei brutti scherzi alla voce. Ma vedi, ogni tanto attivo il deumidificatore. Quello è meglio. Bene, seconda parte come sempre dedicata al jazz, e se questa mattina vi abbiamo annunciato alcuni concerti interessanti, alcuni festival che potrete seguire viaggiando in giro per il mondo, infatti la puntata di questa mattina era molto tropicale perché abbiamo presentato degli appuntamenti e musica dal Brasile, Cuba, Giamaica, insomma abbiamo fatto un bel viaggio soprattutto nel continente sudamericano. Eh sì, perché comunque da lì arriva musica adatta per l'estate. Ecco, invece in questa seconda parte vi vogliamo consigliare delle pubblicazioni, dei libri che magari potrete portare con voi in spiaggia per restare quindi sempre in contatto con la nostra musica preferita. E il primo libro che io vi vorrei consigliare è veramente molto divertente, facile da leggere, una passeggiata, si intitola Hear Me Talking to You, scritto da Nat Shapiro e Nat Hentoff, ovvero La storia del jazz raccontata dagli uomini che l'hanno fatta. E il libro è molto carino, Francesco, io ti presto il mio, se no, l'hai letto? No, ancora no. Ti presto il mio, è molto carino questo libro perché praticamente sono riportati tutti aneddoti raccontati in prima persona dai protagonisti del jazz. Beh, quindi una gran figata. Sì, si imparano un sacco di cose e poi è bello perché il jazz è pieno di aneddoti anche molto divertenti, quindi ci sono dichiarazioni da Billie Holiday, Ella Fitzgerald, Oggy Carmichael, Louis Armstrong, ma tantissimi, guarda, Fletcher Anderson, soprattutto dei protagonisti della prima fase del jazz, insomma quella che va dalla fine degli anni 20 agli anni 40. Quindi proprio le leggende vere le e proprie. Le leggende del jazz. E c'è una cosa molto bella che viene riportata a nome del batterista Joe Jones. Sai chi era Joe Jones? No. Il batterista che tirò il famoso piatto a Charlie Parker, perché Charlie Parker quando era ragazzino non era poi così forte e per anni ha avuto l'incubo di Joe Jones che gli tirava questo grande piatto della batteria e poi diventò quello diventò Charlie Parker. Ma Bird. L'ha preso in pieno in testa. E lo prese in pieno. Allora, ci parla del jazz. Allora, quello che avviene nel jazz: un musicista ti si avvicina dicendo amico ti apprezzo moltissimo e poi comincia a suonare in modo completamente diverso da te. La stessa reazione si ha tra il pubblico. A volte possono non conoscere il musicista che suona sul palco, ma alla fine dell'esibizione alcuni escono dal club felici, altri corrucciati a riprova di come la musica trasmetta sensazioni che ognuno di noi rielabora secondo il proprio carattere. La musica non è solo talento venuto dal cielo, ma è anche un privilegio che Dio ti dà nel suonarla. È qualcosa dentro di noi e dovrebbe essere sempre associata non a cose negative, bensì alla spiritualità. Ecco perché i musicisti dimostrano sempre, con ogni strumento, un'individualità così spiccata. Louis Armstrong, Ella Fitzgerald, Stompin' at the Savoy. When you see your Puerto Rico at the bottom, the da da da. Louis Armstrong e Ella Fitzgerald con Stompin' at the Savoy qui al Soundcheck di Radio 24 in questa seconda parte di oggi dedicata ad alcune pubblicazioni che potrete portare con voi in vacanza, dei libri molto carini, molto divertenti che vi vogliamo consigliare. Sì, tra l'altro a proposito di aneddoti, lo sai che Pippo Baudo è l'unico forse ad aver interrotto Louis Armstrong a Sanremo? Sul serio? Eh sì, l'ha interrotto nella prima edizione condotta da Pippo Baudo. È per quello Pippo Baudo andrà all'inferno. Magari sì. Per questo motivo stiamo scherzando e lo abbracciamo al grande Pippo Baudo. Allora, parlando di libri, eccolo qui un altro molto interessante scritto da Richard Cook, che ripercorre in questa pubblicazione come dire, la carriera, posso dire così, sì, la storia di una delle etichette più importanti del jazz contemporaneo, ovvero la Blue Note Records, che da più di 70 anni è sinonimo di musica di altissimo livello, punto di riferimento imprescindibile nel mondo del jazz. Si è sempre distinta per essere un vero e proprio laboratorio di idee basato su un interscambio fecondo e paritario tra il produttore e gli artisti, e infatti fra gli artisti alla prima esperienza discografica come solisti ci fu anche nel 1962 Herbie Hancock, che realizzò per la Blue Note il suo primo album intitolato Taking Off. Con quali musicisti? C'era Freddie Hubbard alla tromba, mm-hmm, Dexter Gordon al sassofono, eccolo, tenore, Butch Warren al basso e Bill Higgins alla batteria. Eccolo qui, Taking Off, il brano è splendido, Drifting, Herbie Hancock al Soundcheck. Soundcheck, il suono della musica. My mama was right, there's blues in the night. Oh yeah. versione meravigliosa di Blues in the Night per il trombettista Nicholas Payton, la partecipazione di Dr. John e Diane Reeves da un album dedicato a Satchmo, ovvero Louis Armstrong, per uno dei protagonisti contemporanei del suono di New Orleans, ma oggi è anche un musicista molto discusso e anche a volte discutibile, non per come suona ma per quello che dice con il suo movimento culturale BAM, ovvero Black American Music. Comunque Nicholas Payton qui al Soundcheck da New Orleans, e vi ricordo che in questo periodo ci sarà un festival bellissimo, non Jazz and New Heritage, che si è svolto ad aprile ma a luglio, che come si intitola il festival, come si chiama il festival, Francesco? Essence Festival. Essence Festival, che però è un festival dedicato al suono contemporaneo della Black Music. Sì, perché ci saranno Kendrick Lamar, Kindred, Family Soul, quindi tutti questi campioni dell'R&B e del rap. Allora, parlando di trombettisti e parlando di libri, non posso non presentarvi e ricordarvi che è stato pubblicato dalla serie Bianca Feltrinelli il libro di Enrico Rava, del nostro amico Enrico. Si intitola Incontri con musicisti straordinari, la storia del mio jazz. Ho iniziato a leggerlo e lo porterò con me in tournée, perché leggere le avventure dei grandi musicisti fa sempre molto bene, mio caro Francesco. Sì, poi un altro libro di cui si potrebbe parlare è questo di Franco Cerri. Questo è bellissimo, l'ho letto tutto in una notte, guarda. Sì, è Franco Cerri insieme a Pierluigi Sassetti per Arcana, Sarò Franco si intitola. Sì, è bellissimo perché sono tutti piccoli aneddoti raccontati dal grande veterano della chitarra jazz italiana, il nostro Franco. Franco, ti abbraccio forte. Sì, ti leggo una cosa velocissimamente. Lui dice: ci ho provato a prendere delle lezioni di chitarra, lo confesso, ma mi è sempre andata male. La prima volta è stato quando in Piazza Duomo a Milano, mentre passeggiavo, incontrai un grande chitarrista che si chiamava Luciano Zuccheri. Lo avvicinai titubante, sì, lo salutai e gli chiesi: maestro, mi chiamo Franco Cerri, suono un po' la chitarra e sono un suo ammiratore. Mi piace come suona, vorrei chiederle se potesse darmi qualche lezione, mi piacerebbe imparare da lei. E senti il maestro cosa risponde. Senti, io suono come suono, tu sicuramente suoni come suoni tu, così pace fatta. E basta, questa è stata la lezione più importante di musica ricevuta da Franco Cerri nella sua carriera. Andiamo alla musica, ancora il sound di New Orleans, Didi Bridgewater, il nuovo album Didi's Feathers, incontra Dr. John ancora una volta in Big Chief. Soundcheck, il suono della musica. I know you don't love me no more. You're not the kind that would tear me so. Be a woman and talk to me. That's the way I'd rather it be. Feel it sorry for me in your own way. Got to hurt me by telling me one day. So get it over, baby. Please stop leading me on. Leading Me On, il sound incredibile, lo swing dell'organista Joy Di Francesco al Soundcheck nell'ultima, seconda parte della puntata di questa domenica. Allora, vi stiamo presentando alcuni libri belli, scritti molto bene e divertenti da leggere in vacanza, e ci sono anche delle autobiografie che gli appassionati di musica possono leggere sotto l'ombrellone. Sì, David Ritz e Ray Charles è una nuova edizione di Brother Ray per Minimum Fax. poi Stanley Crouch, Fulmini a Kansas City, è un libro che parla della storia di Charlie Parker. Poi Duke Ellington, La musica è la mia signora. In realtà il titolo originario era Music is my mistress, quindi c'è un po' una traduzione errata, perché dovrebbe essere La musica è la mia padrona. Poi l'autobiografia di James Brown, I Feel Good, Miles Davis e Quincy Troupe, l'autobiografia di Miles Davis, e poi un classico da non perdere, se ancora non l'avete letto fatelo subito, perché Billie Holiday, la sua autobiografia, La signora canta il blues, è veramente bellissima, io l'ho letta due volte. E per chi padroneggia l'inglese, consiglio There Was a Fire, scritto dal mio amico Ben Sidran, un libro eccezionale con il quale Ben racconta gli ebrei, la musica e il sogno americano. E il libro parte con questa frase che mi ha molto colpito, vado a tradurre alla lettera: all'inizio l'uomo creò Dio, così per non essere, non sentirsi solo, perso, senza speranza, e Dio diventò quella speranza, e la speranza diventò la ragione per credere che Dio creò l'uomo. Pensa tu, proprio un pensiero filosofico. Comunque io l'ho letto, è veramente un lavoro di ricerca spaventoso, quello fatto da Ben Sidran, che ci racconta gli ebrei come musicisti, come compositori, protagonisti del sogno americano nel jazz e nella musica. Ma sai che facciamo? Pubblichiamo su Facebook magari proprio la lista di un paio di libri che noi consigliamo, così chi loro hanno sempre... Chi è il comunicatore multimediale? Io. Ecco, allora lo devi fare te, fallo. Bene, noi ci risentiamo sabato prossimo, ma vi lasciamo con un altro organista, anzi con l'organista, il signor Jimmy Smith, The Incredible Jimmy Smith in Watermelon Man di Herbie Hancock. Quindi tanto per farvi capire che Jimmy Smith aveva swing e super groove nelle vene. A tutti voi buona serata e buona settimana e buona musica da Gio Telesforo e da Francesco Tromba.